Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa 87.9 in FM. Come annunciato, entropia massima, parliamo con Davide di informatica. Questa è la prima trasmissione del ciclo 2010-2011 sull'informatica e affrontiamo un argomento di grande attualità. Buonasera e buon anno a tutti e tutte. Oggi parliamo di WikiLeaks e non solo. Ci sono un po' di cose che sono successe ultimamente, per cui nonostante sulla radio abbiamo già trattato questo tema i giorni passati, riprendiamo in mano la questione. Ovviamente stiamo parlando, se mai ce ne fosse bisogno di ricordarlo, dell'organizzazione non profit internazionale WikiLeaks, che pubblica diciamo contributi di privati che sono diciamo in genere segreti o classificati da sorgenti anonime o più o meno anonime di notizie o diciamo da notizie che in qualche modo trapelano e poi finiscono su questo sito web che in realtà è stato lanciato nel 2006. Quindi sono già diversi anni che è in circolazione e diciamo dopo solo un anno da quando è stato lanciato già aveva più di 1 milione di documenti disponibili. Dicevamo è uscito recentemente, proprio 2 giorni fa in effetti, un articolo su Wired che diciamo ci descrive la figura di Assange, sul quale poi inevitabilmente è finita tutta l'attenzione mediatica, anche se in realtà poi questa sera parleremo di tante cose, però intanto di sicuro il dato che Wired rileva e di cui noi vogliamo discutere questa sera è il fatto che Assange sia stato giudicato la persona del decennio da parte dei lettori di Wired. Allora, abbiamo la fortuna di avere uno degli autori di questo articolo questa sera qui con noi, che è Arturo Di Corinto. Ciao Arturo, ci senti? Ci senti? Ci sono alcuni problemi tecnici, vediamo se riusciamo a recuperare Arturo che... Non ci sente evidentemente. Evidentemente non ci sta sentendo. Strano, qui risulta in linea, ma... Pronto? No. Allora, riproveremo a chiamarlo. Allora, adesso sì. Tu mi dai il numero e intanto continui. Allora, sì, diciamo che l'articolo è stato subito salutato da un certo apprezzamento da parte diciamo della comunità, e nonostante poi ecco in qualche modo sia un articolo abbastanza da rivista patinata quale Wired, nonostante come si diceva l'articolo sia molto centrato poi sulla figura di Assange, che viene descritto come un Robin Hood dell'informazione, cioè un diciamo come se fosse colui che ridistribuisce l'informazione. E, ecco, la cosa interessante è che in effetti la sua figura rivoluzionaria lo è indubbiamente. E, ovviamente per noi è importante accompagnare con una certa riflessione questa affermazione, capire per bene qual è la natura. Ecco, forse abbiamo recuperato Arturo. Non lo sento. Sì. Ci sei Arturo? Io ci sono. Oh, ecco, buonasera. Ciao, buonasera. Grazie buonasera. Per essere intervenuto, lo abbiamo disturbato, diciamo. No. No, anche se insomma sta in vacanza, dai. sta in vacanza giustamente, nonostante ritiro, questo però più esattamente sono in ritiro. Ah, ecco, addirittura in ritiro. Bene. Sono da solo in montagna davanti al caminetto, in ritiro spirituale. Quindi una situazione ideale per riflettere. Allora, stavamo dicendo di questo articolo che diciamo tu di cui tu sei uno degli autori. Nell'articolo diciamo, si fanno alcune ipotesi su Assange, per esempio, ci si chiede: ma è un ladro? Che cos'è? No, che cosa ci vuoi dire innanzitutto di questo Robin Hood dell'informazione? Intanto l'articolo è solo mio, quindi mi assumo tutta la responsabilità di quello che è scritto nell'articolo. No, Assange non è un ladro assolutamente, è soltanto uno che protegge le persone che gli hanno delle informazioni riservate, che in qualche caso potremmo considerare delle informazioni rubate, però lui non è un ladro, lui è un intermediario dell'informazione come una qualsiasi agenzia giornalistica, come un qualsiasi organo di stampa, come qualsiasi testata editoriale che viene messa a conoscenza di alcune notizie rilevanti o di interesse per l'opinione pubblica e fa in modo di diffonderle. È quello che fanno ogni giorno Maurizio Belpietro e i suoi sodali, cioè coloro che guidano l'impero mediatico di Berlusconi e perfino Minzolini. Considerano che delle informazioni che non sono a conoscenza di tutti quanti possono essere interessanti per l'opinione pubblica e fanno in modo di pubblicarle. Ecco, quindi si tratta comunque di informazioni, come tu scrivi nell'articolo, che altri non pubblicano, quindi delle informazioni particolari, specifiche. Dici, esatto. dici anche all'interno dell'articolo: si comporta come un broker di Wall Street che lascia trapelare alcune notizie e esatto. non altre. Esatto, no? Esatto. Perché ha quell'intelligenza mediatica di capire quando una notizia può essere rilevante e avere un effetto sull'opinione pubblica e quando invece per qualche motivo, anche un overload informativo, non è utile tirarla fuori perché non può essere collegata ad altre notizie, ad altri eventi, ad altri accadimenti e quindi passerebbe facilmente nelle ultime pagine dei giornali oppure verrebbe semplicemente ignorata da radio e televisione che hanno un palinsesto da rispettare, hanno degli spazi molto limitati e quindi devono fare una selezione molto più accurata delle notizie, quindi aspetta il momento giusto per far uscire l'informazione. In realtà è anche un modo per garantirsi una tutela, una sorta di assicurazione sulla sua vita, perché nessuno sa quante altre notizie ha in serbo e di che natura, e quindi diventa più difficile attaccarlo frontalmente o metterlo a tacere, perché comunque è noto che lui si è organizzato per far uscire le informazioni al momento giusto con le persone giuste. Senti, diciamo, cosa ci dice l'esperienza di Wikileaks rispetto alla produzione di informazioni? Perché al di là della figura di Assange, che senz'altro insomma, da questo punto di vista è sicuramente una persona astuta e merita probabilmente il riconoscimento di Wired, però a noi cosa ci interessa, diciamo, del fatto della produzione di informazioni? A noi interessano gli effetti sistemici che Wikileaks ha determinato. Tanto per cominciare, ha messo in grande imbarazzo uno dei governi più potenti del mondo e sicuramente un governo, o meglio un paese guerrafondaio come gli Stati Uniti d'America, che da 200 anni conduce guerre di aggressione al ritmo di una all'anno. Quindi già un effetto positivo, ha messo in imbarazzo una superpotenza che ha basato su covert actions e su una raffinata diplomazia e su dei mezzi di produzione del consenso molto specializzati, ha realizzato un'egemonia di carattere politico prima che militare, tecnologico, eccetera. Quindi questo è il primo effetto, cioè ha detto il re è nudo, ecco, loro si comportano così ed è bene che, a cominciare dagli alleati di questa grande potenza degli Stati Uniti, è bene che si sappia che si comportano e si muovono in un certo modo e hanno una certa opinione dei paesi alleati e di quelli nemici o avversari che magari non sapevamo nemmeno essere tali. Dopodiché ha avuto un grande effetto sul mondo dell'informazione, che lo ha scosso da questo torpore in cui era finito, perché il mondo dell'informazione, che ormai è dominato da 3-4 gatekeeper dell'informazione a livello mondiale, cioè parlo dell'Associated Press e della Reuters, fondamentalmente le due grandi agenzie di stampa internazionali, fanno filtrare soltanto alcune informazioni e sicuramente non fanno filtrare informazioni scomode, non solo, accettano tutta una serie di compromessi con coloro che queste informazioni le forniscono, a cominciare dai comandi militari e dai press office delle grandi multinazionali, e le fanno uscire al momento giusto dietro un compromesso che è quello di dire soltanto le cose che possono essere diffuse verso il grande pubblico e non dire delle cose più importanti. Cioè, insomma, c'è un traffico di informazioni tra gli organi di stampa e chi produce concretamente le informazioni, ripeto, un esercito, una multinazionale, un governo locale, nazionale, c'è un traffico di informazioni che è basato sul compromesso. Cioè, se tu mi prometti di darmi delle informazioni riservate con cui io posso fare uno scoop e vendere più copie oppure ottenere un maggior numero di telespettatori, eccetera, io farò in modo di chiudere un occhio su alcune altre vicende che ti riguardano. Questo compromesso è noto a tutti quelli che vivono e campano nel mondo dell'informazione. Sì, certo. Assange ha rotto questa cappa, esatto, di silenzio, e questo compromesso c'è sempre stato. Senti, volevo chiederti di ci fermiamo un attimo anche sulla struttura lavorativa di WikiLeaks, perché in effetti tu hai fatto dei paragoni, no, con i professionisti dell'informazione e anche della disinformazia, secondo me, citando Belpietro o appunto gente di quel tipo. E, beh, mentre a differenza di radio di movimento come la nostra o indie media, diciamo, si tratta di un lavoro importante, ma comunque a livello volontario, in effetti Assange mi sembra che sa giocare anche bene su quello che è il mercato delle notizie, perché la sua, diciamo, modo di procedere è di dare l'esclusiva ad alcuni grandi quotidiani o periodici mondiali. Nel momento in cui loro lo pubblicano, subito dopo, no, può intervenire anche con altro materiale. Ecco, naturalmente, io credo che faccia bene, credo che sia assolutamente legittimo. Sì, sì, no, non sto dicendo che è legittimo, sto dicendo cerchiamo di capire anche il tipo di margini che può trovare questo tipo di azione con il sistema dell'informazione, perché essendo un lavoro è necessario anche che appunto del denaro entri, perché sennò non può funzionare. Quindi da una parte ci sono gli informatori, diciamo le persone che anche a rischio di finire in galera, come è successo a un militare statunitense, un giovane militare alcuni mesi fa, forniscono queste informazioni riservate, però dall'altra c'era accordo con il mercato dell'informazione, per cui individua, diciamo, in genere periodici progressisti o comunque critici che danno risalto e quindi anche un finanziamento alla sua organizzazione. Sì, sì, no, ma è assolutamente come hai detto tu, quindi che cosa aggiungere su questo? Dal mio punto di vista, che fa assolutamente bene, che è necessario per la sua organizzazione, perché le persone non campano d'aria, ed è giusto che se uno lavora 24 ore al giorno sulla stessa cosa venga remunerato per quello che fa, non potendosi procurare di che vivere in un altro modo. Dopodiché, in realtà, l'uovo di Colombo è un altro, cioè il fatto che lui ha capito che da questa inedita alleanza tra il giornalismo dal basso, questo giornalismo scientifico lui lo chiama, e la capacità dei giornali, dei grandi quotidiani, di far circolare l'informazione, c'è la possibilità finalmente di rompere il silenzio che ha contraddistinto le grandi testate editoriali, soprattutto radio televisive, che sono le più seguite in termini di numeri, per portare al pubblico delle notizie che sono rilevanti per la vita delle persone. Sono rilevanti perché hanno a che fare col modo in cui i governi gestiscono le guerre, il modo con cui i governi gestiscono le informazioni finanziarie di carattere delicato, il modo in cui le grandi multinazionali fanno gli accordi con i paesi canaglia e così via. Allora, Assange non ha soltanto pubblicato i cablogrammi, Assange ha pubblicato dei documentari eccezionali, dei filmati che nessuno aveva, sul modo in cui, sulla leggerezza con cui i soldati americani sparano a delle persone in movimento senza porsi la domanda se sono civili o militari, se sono amici o nemici, alleati oppure no. Cioè, ma non ha fatto solo questo, WikiLeaks ha pubblicato il rapporto Caio, che ha raccontato all'Italia che la rete di telecomunicazione italiana è un colabrodo e che la maggior parte delle famiglie italiane non ha e non avrà mai la banda larga. Cioè, Assange non è solo protagonista dello scandalo dei cablogrammi con cui ha messo a nudo il modo di operare la democrazia americana, ha fatto molto di più insieme a tutti quanti gli altri suoi amici, e se riesce a guadagnare dei soldi da questa cosa, per far funzionare la sua organizzazione, quindi pagare i server, pagare le persone, pagare gli avvocati, questo ben venga. Francamente lui guadagna 80.000 euro all'anno, 80.000 euro a Roma la guadagna un buon avvocato. Guarda, comunque per chiarezza, io non ho fatto per una polemica, ma per inquadrare correttamente... No, lo so, io ti davo ragione. No, ma io ti voglio dire, l'ho fatto perché da una parte è importante capire, no, anche se uno approva il comportamento, è chiaro che se ti appoggi a grandi giornali fai una scelta sicuramente valida, importante, giusta, però diversa magari da quella dei media di movimento. Ma questo è un altro discorso. Io volevo dire che siccome è venuta fuori anche la storia, ma da chi viene pagato, da dove vengono fuori, ma c'è dietro chissà chi, servizi segreti, eccetera, allora fare, diciamo, sottolineare il fatto che invece è abbastanza limpido il meccanismo, per cui lui vende in qualche modo queste informazioni in anteprima a sti giornali, poi pubblica anche altre cose e quindi tutto si spiega, voglio dire, non c'è un grande vecchio dietro i servizi segreti, insomma. O comunque, se questo meccanismo dovesse poi essere poco limpido, ci si può interrogare tranquillamente insieme su quali sono le criticità, trovare nuovi modelli, quindi diciamo è solo uno stimolo, va visto come uno stimolo per fare ancora sono meglio. Sono assolutamente d'accordo con te, quello che volevo dire io, scusa la foga, ma questi argomenti mi fanno accalorare. Quello che volevo dire in più, cioè, ha trovato il modo di far circolare nella maniera più efficace queste informazioni, non ha soltanto trovato il modo di pagare gli avvocati, di pagare lo staff e i server, questa è la cosa importante. Dopodiché anche lì mi sembra evidente che una scelta strategica di Assange, cioè di contattare il New York Times, la Bild, le Figaro, eccetera eccetera, per far circolare le informazioni, non ci sta dicendo che è d'accordo con il New York Times, che vi ricordo era d'accordo con l'invasione irachena, anzi ha contribuito a creare il mito delle pistole fumanti, il New York Times, per scusarsi un anno e mezzo dopo. Cioè non è che le ha scelte perché sono migliori degli altri, ma semplicemente perché arrivano all'opinione pubblica che lui vuole raggiungere. Questa è la cosa fondamentale, e riesce poi anche a fare un accordo di carattere economico che serve alle ragioni che dicevamo prima insieme. Va benissimo, Arturo. Allora noi andiamo in pausa e intanto ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento. Grazie a voi, complimenti. Sappiamo che non ci puoi continuare ad ascoltare, purtroppo, perché diciamo non ci arriviamo ancora così lontano. Ma le montagne dell'Aquila non prende radio. C'è lo streaming, però. Però c'è lo streaming e poi comunque la potrai ascoltare online se vuoi durante quando la metteremo. Allora, a presto, un abbraccio, grazie, Arturo. A presto. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Questa finestra su Wikileaks, approfondiamo il discorso, perché di siti come Wikileaks ce ne sono diversi, ce ne sono già tanti, altri ne stanno nascendo, quindi questo no, non così famosi però. No, assolutamente non così famosi, potrebbero sfruttare la fama di Wikileaks per diventarlo. E diciamo che alcuni di questi, i più interessanti, quello più interessante di cui parleremo stasera è OpenLeaks, parte proprio da quello di cui si stava parlando poco fa, e cioè dal discorso di come coniugare l'esigenza di retribuire risorse umane all'interno di un progetto con invece l'esigenza di renderlo completamente orizzontale, partecipato, collaborativo, diciamo con un metodo che è più vicino a quello dell'open publishing di Indie Media o di questa emittente o di media, diciamo, di questo genere qui. Allora, diciamo, ad esempio, facciamo un esempio di un altro sito che ha aperto, il Brussels Leaks in Belgio, per smascherare gli affari sporchi dell'Unione Europea e quindi per tirar fuori e rendere palesi tutti quei processi decisionali che sono oscuri, sui quali ci sono alcune ombre. Il modo in sì, cui... Scusami se ti interrompo, sì. In realtà la gran parte del funzionamento dell'Unione Europea è oscuro, nel senso che si sa benissimo chi opera, ma comunque è sempre nei corridoi, nell'ombra, ovvero le lobbies che negli Stati Uniti sono, diciamo, alla luce del sole, sono conosciute, insomma, ormai da penso più di un secolo, sono proprio strutture organizzate che hanno anche dei bilanci pubblici, insomma, si sa benissimo che pagano sia i democratici che i repubblicani e quando e come e quanto intervengono. Viceversa, nell'Unione Europea sono soprattutto i padroni, gli industriali, i finanzieri che controllano la Commissione Europea, che non è un organismo eletto, si badi bene, ma è quello che ha maggior potere, molto di più del Parlamento Europeo, che è appunto la struttura invece elettiva, chiusa parentesi. Sì, ed in effetti ciò che fanno quelli di Brussels Leaks è di chiamare a raccolta giornalisti, attivisti, professionisti della comunicazione, anche ONG, istituzioni, persone che lavorano magari all'interno delle istituzioni o persino imprese, studi di consulenza, tutti quelli che possono, che vogliono dare un supporto, e esattamente come fa Wikileaks offrono a tutti questi soggetti la possibilità di pubblicare anonimamente, se lo ritengono più opportuno, le informazioni. Quindi, diciamo, è un sito che non si discosta molto come metodo da Wikileaks, ma cambia l'oggetto e si specializza sugli affari dell'Unione Europea, in particolare del Consiglio d'Europa. OpenLeaks invece scusami, non la Commissione, la Commissione Europea, hai ragione, Consiglio d'Europa è un'altra cosa ancora, hai ragione, è la Commissione. Dicevamo, OpenLeaks non è ancora aperto, ma aprirà prossimamente in Germania e verrà curato da Daniel Domscheit-Berg, che è un ex collaboratore di Assange, e l'idea di questo sito OpenLeaks è quello di evitare il più possibile ritorsioni legali e politiche e economiche, come si diceva poc'anzi, continuando a mantenere sempre una massima diffusione e un totale anonimato delle fonti. Quindi, diciamo, si interroga proprio su questo: riusciamo a fare la stessa cosa evitando che qualcuno si approfitti, che qualcuno provi ad applicare ricatti o ritorsioni su di noi? Eh sì, ricordiamo che Assange rischia l'estradizione negli Stati Uniti, dove sicuramente l'aspetterebbe una cella buia e molti anni di galera. Dice Daniel che ritiene WikiLeaks si sia sviluppato, diciamo, in una direzione errata. Il potere era troppo concentrato nelle mani delle organizzazioni, quindi troppa responsabilità, troppi colli di bottiglia, anche troppe necessità di risorse, e quindi tutto questo, diciamo, in qualche modo ha reso il progetto di WikiLeaks più debole. Al contrario, OpenLeaks vorrebbe non pubblicare informazioni e neanche verificare il materiale, ma separare questo ruolo, lasciarlo agli organi di stampa, i giornali, ma anche al controllo dei sindacati, delle organizzazioni non governative, di tutte le entità che possono essere interessate, in particolare il Chaos Communication Club, il CCC, che potremmo assimilare, diciamo, beh, diciamo è un evento che ha una cadenza annuale, un evento di 4 giorni, una conferenza auto-organizzata che si tiene a Berlino ormai da 27 anni, quindi è storica, ed è una conferenza di tutto il movimento, insomma, di hacker e activist in generale. Quindi per capirci, anche se tra tante virgolette, qualcosa di simile all'hack meeting che si organizza dalle nostre parti. Dicevamo che Daniel Domscheit-Berg è intervenuto a questo ritrovo, quindi questo anche per dire il carattere, diciamo, più di movimento, dai, usiamo questa parola che vorrebbe dare al suo progetto OpenLeaks. Innanzitutto lui dice, questa è una cosa che è avvenuta il 30 dicembre, quindi siamo proprio sulla notizia, il 30 dicembre è intervenuto alla chiusura dei lavori del Chaos Communication Congress di Berlino. Dice che dovrebbero esserci non uno o due, ma 100.000 siti come Wikileaks o come Cryptom.org, un altro dei siti di questa specie. Il problema è che non tutti necessariamente hanno la forza di poterlo fare. Perché? Perché innanzitutto c'è una mancanza di conoscenza su come farlo, e questo è un limite tecnologico con cui ci si deve scontrare. È importante colmarlo, e di questo siamo consapevoli. Molte delle cose che vengono fatte nel movimento riguardante l'informatica hanno questo come obiettivo: colmare alcune lacune. Soprattutto far rendere conto alle persone che questi argomenti, che sembrano roba astrusa per gli informatici, in realtà sono veramente molto importanti come strumenti politici. Inoltre c'è il problema che una volta che si hanno i documenti, poi bisogna creare delle storie sui documenti. Quindi adesso io non sono un esperto di giornalismo, ma il processo giornalistico ha tutta una serie di fasi che parte dai documenti, e prima di arrivare alla notizia c'è all'interno un meccanismo di ripulitura dell'informazione, di verifica, certo, quindi di pressioni politiche o di altro tipo, ed è proprio quello il momento in cui avvengono queste pressioni politiche. Quindi, diciamo, schematizzando al massimo il processo, ci sono una serie di dati che sono informati i più vari, e quindi questo è un primo problema tecnologico, perché bisogna armonizzare i vari formati. Dopodiché si passa a una fase di analisi, e infine la fase di pubblicazione. Chi sono gli attori di questo processo? Beh, ci sono sicuramente le sorgenti di informazione, i volontari, che, ci dice Daniel, è veramente difficile gestire. Loro hanno ricevuto da 800 programmatori veramente in gamba richieste di aiutarli, e non sapevano come gestirli, come fare in modo che potessero essere veramente utili. Tutti volevano fare, mandavano i loro CV e loro non riuscivano a star dietro a questa roba qui. Quindi sorgente di informazioni, controllore di informazioni, staff che possa gestire i vari progetti, tenere in cura magari i server, no? E poi le organizzazioni non governative, la stampa. Di tutti questi attori, qualcuno è più veloce, qualcuno è più lento, qualcuno ha più bisogno di essere coordinato, qualcuno meno. Insomma, tutti questi fattori, secondo Daniel, hanno determinato uno dei fallimenti di Wikileaks, e da qui lui vuole partire per fare qualcosa di nuovo. Va bene, facciamo una seconda pausa e ricordiamo il numero di telefono della radio, perché non l'abbiamo fatto, per chi volesse intervenire, è lo 06 49 17 50. Ascoltiamo adesso i Matmos. Tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums, tums Quindi diciamo che OpenLeaks mette in evidenza l'enorme difficoltà che si ha nel gestire un sito, un'esperienza come quella di Wikileaks. Un'enorme mole di dati, tanti collaboratori, standardizzare tutto. Come si può venire fuori? Beh, una prima idea, ci dice Daniel, potrebbe essere quella di passare in toto alla commercializzazione. Questa è un'idea abbastanza semplice. Si crea un'impresa che ci fa business. Però dice Daniel, così è troppo facile, ricomincerebbe a ricevere troppe pressioni politiche, ci sarebbero sicuramente dei guai, poi per non avere questi guai questa impresa sarebbe indotta a non pubblicare o a pubblicare in parte, e quindi insomma sostanzialmente sarebbe semplicemente un ripetere altre esperienze. Poiché in questa cosa qui c'è tanto idealismo, mal si coniuga con un'esperienza sistemica di impresa. L'altra idea invece è quella opposta, quella diciamo cosiddetta accademica, quindi creare un luogo dove tutti possono mettere tutto, tutti contribuiscono senza controllare, diciamo ovviamente si avrebbe la difficoltà di avere un sistema tecnicamente veramente complesso, problemi di sicurezza e quindi risorse umane di cui hai bisogno non ce le hai, perché anche di credibilità, perché se tu non fai un controllo sulle notizie è chiaro che ne so, il servizio segreto XY per contrastare la tua notizia ne mette un'altra, falsa. Giusto, infatti anche questo, quindi devi star dietro alle cose, non puoi lasciarle andare, e se fallisci è buttato tutto al vento. Diciamo la sua idea è un ibrido fra questi due. Allora lui dice separiamo le cose, no? Da un lato ci abbiamo tanti volontari che hanno informazioni e le vogliono dare, e quindi facciamogli un sistema per darlo in maniera totalmente orizzontale e totalmente anonima e su richiesta. La parte successiva della pubblicazione, quindi della verifica, della pulizia dei dati e della pubblicazione, invece la possiamo gestire attraverso o nuovi soggetti economici o vecchi soggetti economici. In che modo? Supponiamo che ad esempio un'associazione come Emergency abbia dei dati e dice guarda, io ho questa storia qui, la voglio pubblicare in modo anonimo, vorrei che ne parlasse il New York Times. Perché? Perché so che ne ha già parlato di questa storia, so che hanno delle competenze interne e hanno tutto l'interesse a pubblicarla, mi fido di loro, gli affido questa storia per un tempo di 2 settimane. Cioè io gliela do, quindi sottometto la storia al sistema in modo anonimo, dopodiché il sistema mette la notizia, la va a dare al New York Times, così come richiesto dall'associazione. Cioè non è OpenLeaks che dice sta roba qua me la gestisce il New York Times, ma è Emergency stessa che lo fa. Ovviamente il New York Times paga qualcosa per questo. Paga qualcosa, certo, perché è la parte, diciamo, di impresa di cui si diceva. Dopodiché però il New York Times ha 2 settimane di tempo, perché questo è il limite che Emergency ha dato. Se in quelle 2 settimane in effetti va a pubblicare l'informazione, perfetto, la volontà di chi ha pubblicato è stata rispettata. Se però quell'informazione non la pubblica, ritorna a giro e quindi ritorna pubblica, diventa pubblica, perché prima non lo era in effetti, era solo messa all'interno del sistema, non ancora pubblicata. Quindi in questo modo si potrebbe avere, dice Daniel, una sorta di siti che pubblicano, siti tipo Wikileaks, OpenLeaks, che vanno a pubblicare quelle notizie che i grandi media hanno scartato. Questo è un po' il suo... Ora, ovviamente, diciamo che... Che proprio non conoscono, perché se è una fonte riservata non ce l'hanno loro questa notizia, no? Non ce l'hanno, no. Assolutamente, quindi in qualche modo è come dire, se chi può farlo lo fa bene, e se no... gliela tolgo, insomma. Ora, chiaramente questo non è un modello perfetto, perché appunto è pur sempre un ibrido, però lo trovo che sia interessante, quantomeno si è posto il problema di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione su Wikileaks e ha provato a dare una soluzione che vediamo poi come andrà. Ecco, mi sembra che chi propone OpenLeaks, questo tedesco, ha anche fatto attenzione alla vulnerabilità. Assange è destinatario di una serie di persecuzioni giudiziarie, no? A cominciare, certo, dagli Stati Uniti, ma non solo, ci sono state anche pressioni economiche per tagliare le gambe finanziariamente alla sua organizzazione. Quindi per evitare questo... diciamo, è come se la nuova struttura proposta, questa OpenLeaks, in qualche modo si rende quasi invisibile, no? Cioè esiste, ma non c'è un soggetto che può essere denunciato, minacciato o portato in galera. Certamente no, perché non pubblica. Questa OpenLeaks non pubblica nulla, fa solamente da tramite per chi può pubblicare, oppure in seguito, come abbiamo detto, qualora non si pubblicasse. Certo, c'è il problema che se il sistema di sottomissione dei contenuti, dei documenti risiede su un server, questo server può essere fatto oggetto di sequestro da parte delle forze dell'ordine. Ma questo è un problema che noi conosciamo bene e che riguarda ad esempio anche Indie Media, così come riguarda autistici e riguarda tutte quelle esperienze diciamo di movimento che hanno a che fare con i sistemi informatici. E la soluzione, di soluzioni ne conosciamo: replicare più volte, fare in modo che ci sia la stessa informazione sincronizzata in paesi diversi, conoscere la legislazione di quei paesi, conoscere i diritti che hanno che hanno coloro che danno il servizio di hosting nei vari paesi. Quindi insomma le solite tecniche che si utilizzano per resistere a questi eventuali e molto probabili in realtà attacchi delle forze dell'ordine, quindi sotto questo aspetto qui sicuramente. Dopodiché lui conclude il suo intervento dicendo che i membri di questa OpenLeaks saranno per il 50% membri che scelgono loro, e sono banalmente persone che hanno già lavorato in Wikileaks, hanno un'esperienza, hanno relazioni, sanno come si fanno le cose, quindi si riservano questa quota, e l'altro 50% invece lo affidano a un voto pubblico e accettano, diciamo, appunto persone le più varie, dalle ONG ai sindacati, a chi fa attivismo, al Chaos Computer Club, a tutti quelli che possono avere anche un riconoscimento da parte del movimento di persona o diciamo terza parte fidata, indipendente in qualche modo, no? Ed è anche convinto che creando un gruppo un po' eterogeneo e diverso ci sarà una maggiore forza nel progetto. C'è da dire questo, che durante il suo intervento ci sono state alcune domande e una persona dal pubblico ci ha tenuto a dire che in ogni caso anche la seconda parte, cioè la parte in cui i dati vengono processati, puliti e pubblicati, dovrebbe essere svolta attraverso degli strumenti software che siano free software, open source, diciamo free software per noi. Questo perché, diceva chi era nel pubblico, in questo modo riusciamo a garantire anche la trasparenza. E in effetti su questo gli è stata data ragione, quindi anche su questo versante qui la trasparenza sembra essere il punto più importante su cui concentrarsi, e quindi non abbiamo che da sperare che WikiLeaks ci faccia vedere qualcosa di nuovo, ci faccia vedere quello che ha in mente, e speriamo che abbia un successo. Soprattutto speriamo che riesca a mantenere OpenLeaks, stai dicendo OpenLeaks, sì, ho detto WikiLeaks, sì. Peccato, hai visto? Meno male che non hai corretto. E niente, quindi diciamo questo è quanto. Bene, oggi non abbiamo ricevuto telefonate e vabbè, sarà per un'altra volta. Deve essere anche insomma il periodo dell'anno. Ma può darsi, dai. Ci aspettavamo un po' di più, ma insomma. Sì. Allora, buon ascolto con Onda Rossa. Abbiamo terminato con un minuto circa di anticipo, quindi direi in perfetto orario. Dagli 87.9 di Onda Rossa vi diamo appuntamento con Entropia Massima a lunedì prossimo, e grazie a Davide e a chi è intervenuto telefonicamente.